attento alla salute pubblica delle persone. Come diceva prima il compagno Oreste, non ci fermeremo qui, non saranno gli arresti che fermeranno questa lotta, non sarà la repressione. Il 25 c'è stato un grandissimo corteo, forse il più grande corteo che l'avevo deciso ha visto finora. Filippo Malamente, proprio a causa della brutalità poliziesca che continuamente reprime chi si oppone dal basso nei territori al mostro capitalista, perché il colpevole, così come per il ponte sullo stretto, così come tutti gli altri scempi ambientali, così come l'emergenza rifiuti, così come per la munnizza, la cosiddetta munnizza che ci attraversa tutti i giorni qui in Calabria, che è diventata discarica oramai del mondo, il colpevole è uno solo, Il colpevole è uno solo, sono i governi che si alternano da destra a sinistra, sono i governi che alternano la salute pubblica ai territori in nome del profitto.